Packers, we watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray. Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns. I'll tell you, another great play. Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 21, se non erro. Io sono Salvatore Ioppolo, con me Matteo Rubinato. Ciao Matt. Ciao Sal, we are back. We are back, ed è da un paio di mesi, secondo me, che non siamo solo io e te. Giusto? Sì, era ora, diciamo, dai. Ma sì, adesso una puntata tranquilla senza la pressione di avere ospiti internazionali che ci mettono ansia. Esatto, possiamo sparare un po' di cacchiate, un po' liberi, insomma, dai, senza il dovere di essere seri per forza. Allora, finalmente è iniziato il training camp e con esso la stagione 2015, per cui tanta roba, niente di che in realtà, però tanta roba perché perlomeno li vediamo in campo quasi ogni giorno adesso. Carico? Sì, carichissimo, il training camp è veramente inizio della stagione, ovviamente come tutti gli anni, non vedo l'ora che inizi il training camp, il secondo giorno che il training camp è iniziato, non vedo l'ora che finisce e comincia la stagione. Esatto. Sostanzialmente non vedo l'ora di seguire tutte le notizie, la timeline di Twitter, quelle cose, e speri di non leggere nessun infortunio, quindi... Ecco, avevamo detto che non ne parlavamo di quelle cose, io non ne parlo perché altrimenti no, poi dici che sono parlare. Io a portare sfiga. Ecco. Sì, sì, infatti, tu non parlarne, in caso lo dico, l'unica volta che ne hai accennato dopo tre secondi Shields è uscito dal campo, fortuna solo problema della scarpa. Però non quindi, posso esprimermi su queste cose, non posso parlare delle previsioni del campionato perché altrimenti porto sfiga. esattamente, no. Le previsioni sul campionato le faremo prima della prima giornata e faremo le previsioni. Ok. Però possiamo fare le previsioni sul roster finale, quasi certo, quasi. Quelle ci può allora... anche stare. Dopo tre padded practice, si dice così, spero, e due non padded practice, possiamo dire qualcosa, possiamo dire. Sì, allora, in tutto quindi gli allenamenti sono stati 5, sempre per effetto del nuovo contratto collettivo, perché altrimenti prima avrebbero fatto doppia seduta giornaliera, per cui sarebbero già 10. Ovviamente le prime due practice non contano più di tanto perché erano appunto non padded, quindi non si menavano neanche. Le ultime tre invece sono state padded practice, quindi avevano le armature, erano liberi di legnarsi con più o meno forza. E c'è stato qualche colpo, insomma, che poteva essere risparmiato, ma succede spesso nel training camp, succederà ancora di più quando inizieranno ad avere più l'adrenalina da pre-season, soprattutto quelli che faranno fatica a trovare un posto, insomma, nei 53, e quindi magari cercheranno di strafare. Però indicazioni interessanti che sono arrivate ce ne sono. Per dire, sono contento di vedere che Hayward viene visto come per ora lo starter ad outside line, sei linebacker, sì. Dal fisico potrebbe servire. No, veloce, dai, veloce, così male. No. Sì, ma secondo me Hayward, i dubbi grossi sono più che altro sul fatto di poter essere sano per 16 partite, non sulle magari sulle scusa, capacità. Perché solo 16? Vabbè, parliamo della regular season intanto. Mi tocca guidare con le mani da altre parti. Ma no, ma nel senso che ci sono anche le partite di pre-season. Ok. Le qualità di Hayward sono quelle di essere un ball hawk, si dice così, penso in America, cioè nel senso di quello di trovare la palla molto spesso. Non è magari uno shutdown corner come magari può essere Darrell Revis o Revis, come si dice, o Richard Sherman, e quindi magari potrebbe essere più usato come uno slot cornerback, diciamo. Però ciò non toglie che magari possa essere usato come base outside e poi nella nickel portato al centro. Però vabbè, le maggiori dubbi su Hayward sono quelli di della sua tenuta, che non si infortuni, insomma. Poi tra i defensive back mi pare che si possa parlare di piacevoli sorprese anche, vero? Sì. Allora, intanto, i due che sono stati scelti al draft con la prima e la seconda, quindi Demarius Randall e Quinton Rollins, stanno facendo bene. Rollins è tornato da un paio di giorni ad allenarsi dopo aver iniziato il training camp nella NFI, la Non Football Injury List. È tornato, è stato provato soprattutto come slot cornerback nella dime, come ho scritto anche ieri, per cui probabilmente il suo ruolo sarà quello. Si diceva così anche prima dell'inizio del training camp, dopo il draft, insomma, si pensava a lui come più uno slot, mentre Demarius Randall più come un outside, e infatti così è stato finora. Ha avuto più snap all'esterno Demarius Randall, si è comportato abbastanza bene, ha avuto il piacere e l'onore di intercettare Rodgers e di farlo incazzare. Però la sorpresa è questo Ladarius Gunter, di cui si parlava bene già prima del draft, ma prima dell'inizio del training camp, ma ha dimostrato quanto di bene si diceva e di più, perché finora è stato probabilmente uno dei migliori in campo, di sicuro uno dei migliori in difesa. È un undrafted, non mi ricordo da che squadra, Miami Miami, forse, sì. bah, Miami, ok, come Shields mi pare anche che fosse uscito Esatto. da Miami, e Miami Florida, ok, non Miami Ohio, dove arriva Rollins tra l'altro. Il fatto che è stato undrafted è perché ha corso sostanzialmente ha un tempo sulle 40 yard molto alto, che poi molto alto, dipende se lo corro io, è molto molto basso. E quindi cioè, anche mi pare fosse 4,69, ma vado a memoria questa cosa qui. Perché comunque per il resto è una bella stanga, perché se è un 6-2, quindi forse è il corner più alto che ci sia nel roster in questo momento. Nei E nostri di sicuro, perché appunto, sono tutti. esatto, 3,5-10, 5,11-6 mi pare di solito, queste sono le misure cui utilizza Thompson. E sì, e ogni giorno sta facendo dei play, delle giocate che si segnalano per la loro bontà. Quindi il reparto sembra abbastanza coperto. Diciamo, dove consideriamo Shields uno starter, ovviamente uno degli due starter, l'altro dovrebbe essere Hayward, gli altri due spot per la Nickel Dunn, si parlava di Hyde. C'è anche Randall, c'è Rollins, c'è lui, quindi Siamo messi benino, dai. siamo messi abbastanza bene in quello che sembrava uno dei ruoli che magari sembrava scoperto qualche mese fa. Ovvio che manca un po' di esperienza, però. Sì, quella arriverà, però quando c'è del talento si parte già avvantaggiati, dai. Esatto, Tra le altre esattamente, cose, sono d'accordo. cosa particolare che mi ero segnato, che avevo anche scritto in uno dei report di qualche giorno fa, è stato provato un pacchetto in cui nella nickel Richardson era uno slot cornerback, che insomma da safety, insomma, sappiamo che è un po' un giocatore ibrido Richardson, però come cornerback non penso abbia mai giocato finora, non vorrei dire una stupidata, ma mi pare di no. Però diciamo che può dare quella soluzione alternativa, magari da slot fare, che ne so, dei blitz nella nickel o nella dime. Verrà utilizzata, ecco, tu ne sai molto di più insomma, di me, di questa cosa qua di ruoli, di formazioni Ma e non darlo per X e scontato, Nose. eh. Ok, secondo me verrà utilizzato in qualche sub-packages, come se cavolo si dice, nel quale lui vada a prendere il posto di uno dei due inside linebacker, ok, e quindi viene utilizzato come ruolo ibrido tra un linebacker e una safety. In quelle situazioni in cui non si sa se si corre o se si passi, ok? E lui potrebbe fare discretamente sia l'uno che l'altra. Diciamo che è un ruolo che mi pare usi Arizona, che ho letto da qualche parte, non mi ricordo dove, ha usato molto spesso l'anno scorso e sembra sia una figura di giocatore che si sta ritagliando importanza nella nuova NFL, se possiamo dire nuova NFL, dove il passing game è molto più importante del running game, ok? E poi magari quello che dico sono tutte cavolate e quindi non sarà vero, però magari ci deve essere un motivo perché lo pagano 2 milioni e 500 mila dollari, insomma, quindi. Sì, tra l'altro tra le safety sembra abbastanza attivo in questo momento, anche e soprattutto in copertura, Barnett, che non è conosciuto come una di quelle safety che copra i ricevitori tight end, ma più che altro come un run stopper, però pare che abbia Gli fatto già prude un il paio di culo. Prude il culo. già un paio di intercetti, insomma sì, abbastanza attivo, bene dai. Per cui secondo me il reparto delle secondarie in quanto a talento è messo bene, ecco, la metto così. Sembra esatto, sì, dai. Possiamo, visto come eravamo le premesse all'inizio dell'anno scorso, soprattutto per quanto riguarda le safety, adesso abbiamo a Clinton Dix, abbiamo Markham Barnett, Mike Anidal, Correnza può giocare safety, lo sappiamo. Sean Richardson, non dimentichiamo di Banjo, che comunque piace molto a training staff, possiamo dire che siamo abbastanza coperti. Non siamo fenomeni, però cioè, voglio dire, no, sicuramente siamo sopra la media. Sì, Sì, restando alla difesa, resta ancora qualche punto interrogativo sulla defensive line, e ne parleremo fra un attimo, però per quanto riguarda gli inside linebacker, stavolta davvero, nel senso che è stata fatta un sacco di rotazione ultimamente, però sembra che un minimo di gerarchia si sia stabilita, ossia Clay Matthews nella 3-4 base è inside linebacker, accanto a lui Sam Barrington, e dopodiché Palmer sta avendo un grande training camp ed era uno di quei giocatori probabilmente dimenticati, Palmer. Pare che sia molto attivo, si sta anche allenando con una specie di guanto da box, non so bene che cosa sia perché ha avuto un piccolo problema alla mano. Ryan, rookie, scelto al quarto giro, anche lui diciamo che non è stato buttato nella mischia in maniera troppo pesante, viene un po' centellinato. Ieri ha avuto qualche snap in più, approfittando dell'assenza di Matthews nel ruolo di side linebacker. Ne stanno parlando benino, diciamo, nel senso che hanno detto placca molto bene. È un giocatore molto istintuale, si dice, istintivo. Istintivo. Mi piaceva di più istintuale, però dovremmo chiedere a Treccani se. Esatto, al devoto Oli. E in realtà pare sparito dalla circolazione invece quel Carl Bradford da cui ci sarebbe aspettato di più finora, insomma. Insomma, è grossissimo indiziato al taglio, però non se ne parla da nessuna parte. Cioè, mi pare, non ho letto neanche tra gli special team, tra l'altro, o forse sì, però. Mi pare ieri qualcosa abbia fatto anche di special team, ma diciamo che dovrebbe lasciare il segno più da qualche Sì, altra mi pare, parte. infatti, McCartney ieri si è lamentato del fatto appunto che gli selling backer dovrebbero mostrare qualcosa di più, vuol dire. E tra quel poco che si è letto, sicuramente non si è mai letto di Bradford. Quindi, e poi c'è un tale Joe Thomas che magari fosse bravo come quello di Cleveland. Però neanche lui non lo conosco, quindi cioè, abbiamo i due, cioè, diciamo, per il ruolo degli inside linebacker rimane comunque un punto interrogativo. È vero che, come dici te, nella posizione per come la giochiamo non ci saranno Hall of Famer, ok? È vero che ci troviamo molto spesso a giocare con un solo inside linebacker alla fin fine, ok? Perché comunque magari Clay Matthews verrà portato all'esterno, ok? Certo che dietro a Clay e Sam Barrington, se si esclude Jack Ryan, che comunque è un rookie, non c'è molto. Speriamo che nelle quattro partite inutili di preseason qualcosa venga fuori tra Nate Paul, Palmer, Joe Thomas o Cal Bradford o qualche altra sorpresa. Sì, diciamo che al di fuori dei due titolari, appunto Matthews e Barrington, sarebbe carino se venisse fuori uno, anche solo metà Palmer e metà Ryan, nel senso qualcuno che sia un minimo affidabile, appunto non serve un Hall of Famer, ma che non sia neanche a livello di quello stronzo di Brad Jones, che ha parlato male, insomma, ha detto qualcosina che poteva evitare ieri a Ah, accidenti, Filadelfia. non l'ho visto. E Non ha l'ho detto una visto. cosa del tipo: la cultura qui a Filadelfia è migliore di quella di Green Bay, insomma, una roba del genere, la cultura sportiva, cioè, non lo so. Poi ho visto che su Twitter lo offendevano, però non sono stato a indagare, non ho Ah. voluto leggere le sue dichiarazioni. Ci manca la defensive line. La defensive Uno, line. beh, oddio, gli outside linebacker, ma sugli outside linebacker cosa c'è da dire? Cioè, più C'è da di dire dire che che. Andy Mulumba sta facendo un grande training camp, questo sì. E Esatto. E anche speriamo che sia lui. una piacevole sorpresa. Sì, infatti prima dell'inizio del training camp avevo fatto la mia previsione dei 53 che avevo messo su Endzone. Per quanto mi riguarda, in diversi ruoli vorrei già cambiarla, infatti la cambierò comunque. Mulumba, sì, è tornato, pare al 100% dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare la scorsa stagione, era nei ACL, se non sbaglio. Sì. È stato, insomma, lodato perché è stato visto molto spesso nel backfield o per sack o per tackle for loss, quindi insomma, speriamo continui così e basta. Sì, diciamo Nick Perry e Mike Neal non rischiano il posto, ovviamente Julius Peppers dovrà confermare il buono fatto l'anno scorso. Dietro di loro, cioè, ovviamente dietro di loro, con loro c'è Clay Matthews quando si porterà a fare l'outside linebacker. Dietro di loro appunto c'era quel gruppetto tra cui c'era appunto Malumba, Adrian Hubbard, che non ha fatto niente. Jalen Elliott, che mi pare stia facendo qualcosa, però non ai livelli dell'anno scorso, anche però se mi pare che non sia a rischio taglio lui, perché lo vedo in molte formazioni di special team, ok? E poi che ci sono i due undrafted, quelli Wouters e Dantler, che non ho mai letto, però sinceramente, quindi non so come stiano Infatti, facendo loro. uno di quelli che avevo messo nel roster finale era Wouters, ma penso che cambierò idea. Vabbè, chi lo sa, aspettiamo, vediamo. E ti sei dimenticato Perry, che per No, l'ho ora. Ah, detto, Neil l'hai Perry, l'ho detto? Ok, detto. non l'ho No, sentito a io. me piace Perry, insomma, è il miglior outside linebacker che abbiamo nel difendere contro le corse, secondo me, Neil Sì, Perry. sì, sì. Poi l'anno scorso, insomma, nello spazio che si è aperto, diciamo, con lo spostamento di Clay Matthews, è stato abbastanza efficace. Non so se sarà mai un giocatore titolare, nel senso magari con un ruolo più limitato riesce ad avere più impatto, mentre invece giocando più snap si perde un po', non lo so. Il problema anche per lui è il fatto di rimanere sano, che anche l'anno scorso alla fine ha giocato con un infortunio, anche se l'ha giocato, però non al 100%. Ma vediamo, comunque molto dipenderà dalla defensive line, secondo me. E qui so che è il tuo grosso punto interrogativo. Io non la vedo così male come la vedi te, ma magari, e spero di aver ragione, perché se avessi ragione te forse siamo nei guai. Sappiamo che Gaillon è sospeso per 3 partite, ma mi pare però ancora c'è la pelle, mi pare, per lui. Dalton Jones ha sicuramente una partita di sospensione e comunque non sta facendo un training camp della Madonna, ok? BJ Raji sembra tornato discretamente in forma, è più leggero degli altri anni e io sto leggendo belle cose, perché io ho letto 2 o 3 volte che ha massacrato Linsley, sinceramente, quindi cioè, non è una brutta cosa, ok? Ovviamente l'altro punto fermo è Mike Daniels, che lui invece di essere magrito è diventato ancora più grosso, cioè era un po' undersized prima, magari speriamo non abbia perso la velocità magari. E poi dietro di loro ci sono chi c'è? C'è Josh Boyd, Mike Pennell, che lo prendo come prossima sorpresa della stagione, adesso qui sarò smentito ovviamente, e chi c'è? Non mi ricordo chi c'è dopo di loro. Guarda, C'è c'è. Gaston o qualcosa del Sì, e genere. poi c'è anche un Hooks, Levon Hooks, che è un undrafted rookie, un 6'3", 312, 23 anni da Mississippi. C'ho il roster dei Packers qua. Non l'ho mai sentito. No, neanch'io, però alcuni lo davano come possibile sorpresa prima del training camp. Io sinceramente non l'ho sentito nominare da quando è iniziato il training Cioè, camp, secondo quindi. me è vero, hai ragione. Che tu, la prima partita sicuramente si è sempre fatta da Dalton Jones e Guyon. La seconda probabilmente senza Guyon, ok? È vero che, cioè, però devi considerare che insomma, le 3 defensive line non le vediamo solamente nella base defense. Perché in tutte le altre, cioè, secondo me nel 70% dei giochi difensive abbiamo in campo, ne abbiamo 2 di defensive line, Però secondo per me, non ne dire, abbiamo di più. anche Week 1 contro Chicago, secondo me la si usa abbastanza la 3-4 base, contro Chicago, contro Matt Forte. Sì, però vuol dire la prima c'è cioè Raji, Daniels E? È questo che mi chiedo. e Mike Pennell. Va Ecco, bene, allora io. io no, cioè voglio dire adesso, diciamola scherzando, voglio dire, io sento dei grossi sarcasmo su Chicago, vuol dire, io non sono così negativo su Chicago, però non possiamo perdere a Chicago, sinceramente, cioè, non possiamo farci problemi perché comunque se anche ci fanno un po' di punti ne dobbiamo fargliene triplo, cioè una difesa secondo me che è peggiorata rispetto all'anno scorso, secondo me, quindi Io non non ho lo so. guardato molto in realtà Chicago perché insomma lo sport minore non lo seguo, però alla fine contro le corse, contro Matt Forte l'anno scorso quanto ci ha fatto? Tipo 170 yard in una delle Sì, partite? 180.000 yard. È Per vero, cui assolutamente insomma vero. va bene che era nella prima parte di stagione, per È cui anche vero che insomma lui è forte. è anche forte, non lo so, insomma ce ne metto uno, cioè, No, ma vorrei hai vedere sicuramente qualcuno. ragione, secondo me, sicuramente hai ragione. Però voglio dire, secondo me c'è tutto il tempo magari per qualcuno emerga. Mike Pannella Sì. Adesso emergerà. Fidati. come adesso mi pare che la cosa più sicura sia Josh Boyd, che sì, non è questo fulmine di guerra, però insomma, vedremo, dai. Però contro le corse magari può dire la sua. Sì, però è vero, come dici te, abbiamo parlato anche ieri sera, è vero che è un po' sottovalutata dai media il fatto di questa gara a chi sta emergendo nella defensive line. È vero, non se ne parla molto. Beh, dai, vedremo cosa salta fuori. Ancora ne mancano un po' di giorni di Sì, sì, practices. sì, sì. E dobbiamo parlare anche un po' dell'attacco, perché qua siamo Sì, partiti dalla però. difesa e abbiamo parlato un bel po' della difesa, come Beh, se l'attacco fossimo tranquilli sappiamo, dell'attacco. dai, Sì, lo siamo. l'attacco, dai, lo siamo. Diciamo che mal che vada, ovviamente toccatevi tutti quanti, se non si fa male quello lì, c'è cioè, mai che vada, Tolzin, se ne... intendi? Non si faccia male lui? esatto, sei nei primi 5 attacchi della Lega, mai che vada. Sì, E sono abbastanza negativo in questo momento. Cioè, l'importante è che lui stia bene. Poi mi pare che grossi, cioè, le notizie che si seguono sono praticamente le battaglie per il quinto, sesto, settimo spot di wide receiver, o di settimo, ottavo posto per l'offensive lineman, di terzo running back. Secondo me, dopo, dire, puoi farlo brevemente te, il report sull'attacco, sì. io, con i problemi di Abrederis, non sono più neanche così convinto che sentano la necessità di portarne 6 di wide receiver, sinceramente. Nel senso, lui è una concussion. Io comincio ad avere paura. Per lui, per lui, per la sua carriera, Certo. non so se lo vedremo mai giocare, cioè, non lo so. Ma Speriamo, speriamo bene. cioè, anche solamente per questa cosa qui. Cioè, tu hai quattro wide receiver che di cui c'è uno è Nelson, uno è Cobb, il terzo è Devontae Adams. Allora, i primi due, diciamo che come coppia, cioè, forse c'è una co come coppia, forse se non è la migliore, è da podio sicuramente. Hai Devontae Adams che vabbè, non si è fatto notare nel training camp moltissimo, però non si parla neanche male e quindi in teoria se minimo migliora un po' rispetto all'anno scorso è una sicurezza. Ty Montgomery è la sorpresa del training camp ad oggi, ha fatto di tutto e di più, cioè, quindi dietro di questi quattro ce ne hai quattro che in teoria sono già molto forti, se ti basta un quinto, un sesto cosa ne fai? Lo metti in training attivo il giorno della partita? Lo sai, prima del training camp si diceva Sì, questi quattro infatti, più infatti, è vero. Geni sempre Deris Certo, è vero, e assolutamente. comincio insomma speriamo di no dai. Però Ma potrebbe anche perché liberarsi un poi... po' sto roster, nel senso potrebbero andare con 5. Prima era praticamente dato per scontato che andassero con 6, Sì. considerando che degli undrafted, dei nuovi rookie, insomma non si è sentito parlare, se non appunto di Ty Montgomery, non lo so, vediamo dai. Per quanto riguarda i running back, stanno facendo un buon training camp i due che ci Ecco, sono, perché, infatti. perché appunto Crockett non ha ancora fatto neanche un allenamento in questo training camp, si era fatto male nel primo allenamento del mini camp, aveva avuto un problema alla caviglia, se non erro, Caviglia, sì. e dopodiché non è più tornato, non è stata data neanche un'indicazione da McCarthy su quando possa tornare. I due che ci sono però Alonzo Harris e Rajon Neal, e adesso controllo se ce n'è anche qualcun altro, ma credo di no. Mi pare di no. No, Mi pare di non c'è. no. Vabbè, c'è Starks, Vabbè, solo. Starks, lei sì, cioè, diciamo, gli diamo, cioè, lei si è avuto un piccolo problema al piede, ma penso che sia poca roba, insomma, spero, quindi voglio dire, possiamo dire che sono sicuri, vuol dire loro, quindi non penso che... la battaglia è per il terzo, e secondo me lì, in questo momento, dovresti, magari tanti, diciamo, ci davano molti Crockett, ma Crockett se comincia a allenarsi va in practice squad sicuramente. Molti davano Rajon Neal, ma sembra che si parla molto bene di questo Alonso Harris, Sì, invece. Alonzo Harris è 6'1", 237 libbre, quindi un discreto bestione. È uno stile di corsa alla Lacy, si sta facendo notare per questo. Corre molto veloce, molto duro, riesce a liberarsi molto bene dei placcaggi, dei tentativi di placcaggi, perché pur sempre training camp. Per cui lui si sta facendo notare per questo. Rajon Neal invece si sta dimostrando una sicurezza per quanto riguarda le ricezioni fuori dal backfield, che è anche lì una cosa che poi tornare utile, non so, sul terzo down, eccetera. Non sta bloccando benissimo, quindi questo potrebbe un attimo frenare le sue ambizioni, dato che comunque sul terzo down devi anche bloccare. Assolutamente, poi l'hai già strutturato così. Però, insomma, diciamo che questi due poi alla fine probabilmente saranno questioni di scelta filosofica, nel senso, se non mi interessa avere un giocatore che fa il cambio di passo. E ovviamente c'è già Starks, però se ne voglio avere un altro che possa fare il cambio di passo, magari mi prendo Rajon Neal. Se mi basta anche uno che ramazzi la gente per terra, posso tenermi Alonzo Sì, diciamo Harris. che esatto, però adesso vediamo, insomma, si giocano le poste nelle quattro di preciso, Sì, sì, sicuramente, sì, sì. ecco, quindi... Noi ovviamente stiamo parlando solo per dare gli denti perché è ancora prestissimo, però è divertente farlo lo Esatto. stesso, dai. Ecco, sarà, insomma, portano due fullback nei 53, secondo te? Ecco, io nella mia previsione di cui parlavo prima avevo messo uno e avevo fatto insomma la sorpresa assoluta, cioè il taglio di John Kuhn. Se però col bilancino insomma vai a guardare, se portano 5 wide receiver, possono portare anche 2 fullback, volendo, per dire, considerando che portano 3 quarterback, poi sono tipo 8 offensive linemen, metti 5 ricevitori, 2 fullback. 3 tight end, stare solo 24 così in Sì, attacco. in questo momento arrivare a tre tight end è difficile. Sì. No, vabbè, a parte sì, lasciando un attimo il fullback, lasciando stare i fullback e il tight end, si è parlato benissimo di Richard Rodgers, anche ieri ha fatto la ricetta da circo. Colley si è appena tornato, anzi Colley ha avuto dei problemi molto più gravi del fatto che andava a giri armato a South Beach, e sappiamo tutti, ci dispiace. Dietro di loro due, però, cioè, Kenard Backman non si è mai sentito, la sesta scelta di quest'anno. Si è sentito un po' di questo Mitchell, che io lo conosco perché è andato a ospite del Bahrain Caribou e lo so visto più che altro in qualche formazione dello special team, ok? Per il resto, c'è cioè, zero. Sì, tra l'altro però ne parlava bene Wes Hockwitz, un altro che è stato nostro ospite, perché non sapesse, dicendo che comunque è il titolare nella posse del special team. Sì, infatti, vero. Per cui diciamo che è una buona cosa per lui, perché se, soprattutto per i rookie, soprattutto per gli undrafted, se dimostrano di essere importanti negli special team, è molto probabile che poi finiscano a roster, insomma. Vero, vero. Quindi vedremo, vedremo, dai. Ci Si è resta parlato, l'offensive line. sì, si è parlato bene anche di Perillo, Perillo? Non Ah, ricordo come bravo, lo si Perino. dice. Sì, non lo so, però sì, Perillo. me l'ho dimenticato. Sembra abbastanza fluido nei movimenti. Ieri ne ha parlato, ha twittato bene di lui, Brian Caribou, che era all'allenamento. Sì, siamo a livello dello stalking, io e Salvatore su Twitter. Insomma, fra poco ci congelano l'account. Probabile. Succederà prima o poi. Però non lo so, sì, alla fine ne porteranno 3. I primi 2 li sappiamo, il terzo quasi a caso alla fine, perché. Sì, vediamo, certo, non dico a caso, però poco ci Comunque, manca, stavolta il secondo terzo me. non sarà Bostic, per cui insomma va già bene Porca così, dai. puttana. Dai, cambiamo subito discorso, se no parliamo ancora di quella cosa lì. No, non esiste quella cosa lì. Esatto, È finita. offensive line, 5 Offensive sicuri, line, 5 sesto sicuri. Barkley, settimo Tretter, Ottavo sicuro. Lane Taylor. No, ma, no, ma, ecco, o lui o Matt Rotherham a questo Matt punto. Però di Lane... Rotherham. Poi di Taylor se ne sta parlando molto bene. Sta parlando molto bene. Lui probabilmente sarebbe alternativa all'interno della linea, quindi alle due guardie. E Tretter ovviamente sarebbe alternativa a Linsley. E invece Barkley Tackle? Sì, swing tackle, possiamo dirlo? Sì, è stato provato sia a destra che a sinistra finora. Nel caso si faccia male uno dei due tackle, portano Lang e Dade fuori e mettono un altro guardia, secondo me, però adesso, spero che non succeda, così non dovrai dirmi di che avevo ragione, però No, comunque direi che no, 8 dai, possono insomma, bastare a roster. sì, e poi 8 buoni, Sì, diciamo siamo stati decisamente. molto peggio come offensive line, no? Sì, special Quindi team. Allora, intanto hanno portato dentro questo nuovo punter, Corey Mandel, che che sta non sta portando neanche sfiga a facendo prove. male. Sì, esatto, non sta pantando bene, però fa l'order da schifo, sembrerebbe. Quindi, Sì, o Crosby comincia, tutte le se volte che vuole. lui a tenergli la palla sbaglia, o lo sta facendo apposta Esatto. perché vuole tenere Massey, Esatto. oppure non lo so. Sì, diciamo che se Crosby continua a sbagliare quando lui fa l'order, non farà mai il roster, però il problema è quello Esatto. lì, sostanzialmente. Quindi, Per quanto riguarda no. i ritornatori, invece, sembra oramai stabilita la gerarchia. Punt, Hyde, confermatissimo, e non potrebbe essere altrimenti, secondo me, perché è bravo. Sì, esatto, vero, sì, Con assolutamente. seconda alternativa per ora Cobb, e io spero che non lo usino negli special team perché mi sembra uno spreco, o meglio, Concordo. può fare dei grandi numeri, però io non lo rischierei. Concordo. Nei kickoff invece Montgomery, sembra, insomma, da quando li provano è sempre lui il Allora, primo. sì, ha un vantaggio Montgomery, no, non possiamo essere peggiori dell'anno scorso, però Sì. se poi pensi che è stato draftato. Non dico soprattutto, ma anche e soprattutto per farsi il kick-off return, si spera che veramente ci sia una svolta in quel ruolo. Sì, come secondo invece mi pare fosse sempre Hyde, Jeff Janis, Par di sì. che è l'idolo delle folle, di cui abbiamo parlato ancora poco, ma bisogna parlarne in ogni puntata di qualsiasi cosa si faccia. Certo. In realtà è stato usato come gunner, per lo più Sì. agli special team, cioè nel senso è presente in molte formazioni di special team, però in ruoli, insomma, sì, fa il gunner. Sì, e il problema suo è il problema che non riesce a capire il playbook, quindi, no, quindi se non capisce il playbook non gioca, per il resto avrebbe tutto, dalle qualità fisiche alle qualità atletiche, alle qualità, se non impara il playbook rimane una promessa, poi comunque insomma farà il team, quindi magari eventualmente poi subito ne ha, e speriamo che si faccia della preseason, insomma. Sì, la cosa che ho scritto, ho twittato ieri a qualcuno mentre stalkerizzavo, così, era una cosa del tipo che questo povero ragazzo, cioè Jeff Janis, alla fine è stata creata questa hype intorno a lui senza che lui lo volesse, perché lui ha semplicemente fatto un paio di azioni nella scorsa preseason e adesso ci si aspetta di tutto e di più e quando non fa tutto e di più viene preso per il culo perché sono in molti che lo prendono in giro con battutine del tipo beh, quindi vai in Hall of Fame, quindi... E per cui, però, questo poveretto non ha fatto niente No, per. è vero, assolutamente. Però funziona anche il fatto che è bianco, secondo me, influisce molto anche quello, secondo me. Sì. Però vabbè, vediamo. E altre cose da dire? No, c'è da dire che io adoro la barba di Mike McCarthy. Spero che non se la tagli, che resta che mi fa. No, Ti mi fa. sta. No, detto così, mi fa. No, è troppo bella, è bellissima, così secondo me. La barba snellisce la faccia un po' perché è per quello che la tengo anch'io la barba, hai capito? Niente, noi un po' di stronzate ne abbiamo dette, cosa dici? Ci aggiorniamo alla prossima? Bene, Esatto, ci sta. Sì, assolutamente, assolutamente. dai, allora chiudiamo qua, non tediamo oltremodo i pochi ascoltatori che forse abbiamo. Bene, grazie Matte della chiacchierata, grazie a voi pochi che forse ci ascoltate. Go per go, come sempre, ciao. Ciao. Must we take this disgrace? Another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever play the game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a ham. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. They really, really, really, really, really, really suck. Yes, the Bears still suck. Soldier Field, they make you pay a toll. For cripes sake, they only won one lousy Super Bowl. They make fun of Wisconsin, but we don't get upset. Where do you think that they're all headed every chance they get? We don't really hold a grudge, cause this is all in fun. As far as football rivalries, we're both number one. Still, we wouldn't mind seeing Ditka run over by a truck, cause the Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. The Bears still suck. They really, really, really, really, really, really suck. Yes, the Bears still suck. All the ladies now. Yes, the man.